GR24, il sole 24 ore. Fini avverte, il governo non detti l'agenda al Parlamento, oggi in aula il DDL sul processo breve. Rosarno, l'Egitto attacca l'Italia sui diritti degli immigrati, molti stranieri dalla Calabria tornano verso Castel Volturno. Iran ucciso con una bomba un fisico nucleare, il regime di Teheran attacca Israele e Stati Uniti. Fiat marchionne ai sindacati, su Termini Imerese il sindacato non ignori la realtà, scioperi spontanei nello stabilimento. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione, benvenuti a questa nuova edizione di GR24 che apriamo anche oggi con la politica, con le dichiarazioni del Presidente della Camera Gianfranco Fini. Ce ne riferisce da Montecitorio la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Torna a rivendicare la centralità del Parlamento, ma soprattutto lancia un nuovo avvertimento a Berlusconi e ai colleghi della maggioranza. Il Presidente della Camera Fini ribadisce in tempi di riforme quelli che secondo lui sono i limiti della funzione di governo, che non può dettare, dice, la sua agenda a senso unico, non può governare scavalcando il Parlamento, non può ricorrere così eccessivamente alla decretazione d'urgenza, ma sentiamo la sua voce. Solo una visione che definisco mitologica della democrazia può infatti indurre a ritenere che la funzione di governo si traduca automaticamente, una volta conclusa la competizione elettorale, in un'agenda legislativa predefinita e a senso unico, in cui il potere esecutivo tende a limitare o peggio a soffocare il libero dibattito parlamentare sulle grandi decisioni di politica pubblica. Insomma, la legittimazione democratica a governare secondo Fini non può scaturire solo dalle urne, ma è qualcosa che si rafforza giorno dopo giorno attraverso il confronto parlamentare, mentre le grandi decisioni della politica devono essere condivise. Da Montecitorio è tutto, a voi la linea. E grazie Alessandra Schepisi per questi aggiornamenti. Sullo sfondo di tutto questo naturalmente ci sono le riforme e su tutto la riforma della giustizia. Nel pomeriggio di oggi inizia l'esame sul DDL sul processo breve, tutti i dettagli dalla nostra Elisabetta Fiorito, anche lei da Montecitorio. Elisabetta, buongiorno. Si continua anche oggi l'accelerazione sul processo breve sul legittimo impedimento. Il Premier Silvio Berlusconi incontra a Palazzo Grazioli il Ministro della Giustizia Angelino Alfano e Niccolò Ghedini, il suo legale. Il disegno di legge sul processo breve intanto arriva nell'Aula del Senato oggi pomeriggio, ma il PD già mette i paletti per Anna Finocchiaro. Il testo deve tornare in Commissione perché è stato presentato un emendamento molto complesso che riscrive non soltanto il processo breve, ma introduce parti assolutamente inedite. Dalla maggioranza rispondono che la richiesta di ritorno in commissione non è ancora stata formalizzata dall'opposizione e secondo alcuni esponenti PDL, come il Presidente della Commissione Giustizia del Senato Filippo Berselli, la soluzione migliore sarebbe quella di dare un congruo tempo all'opposizione di presentare i propri subemendamenti, lasciando però il provvedimento all'esame dell'Aula, dove, come hai detto tu Simone, approderà oggi pomeriggio. Per il momento da Roma è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, al tema della giustizia era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Sono legge al deliberate e mi indigno soltanto quando sento, quindi non voglio indignarmi. Silvio Berlusconi ha risposto così ieri a chi lo accusa di voler fare una riforma della giustizia ad persona, ma sono leggi ad libertatem invece. I nostri ascoltatori però non si fidano. Nel nostro sondaggio di oggi il 78% crede di più al rischio di leggi ad personam. Sul piatto la novità è il processo breve, con una nuova stesura prevista dal maxiemendamento Valentino che modifica i tempi di prescrizione e include anche i reati gravissimi come mafia e terrorismo. Da Fabio Roia, magistrato del CSM, si ribadiscono le perplessità. Si tratta sostanzialmente di un'amnistia mascherata. Normalmente costruendo una casa non si parte dal tetto ma si parte dalle fondamenta, nel senso che una norma di programma, per dire un processo penale deve essere celebrato in 3-5 anni, è una norma che dovrebbe in qualche modo prevedere prima interventi strutturali sul piano della semplificazione del processo penale, di una fortissima depenalizzazione sul piano delle risorse da dare ai magistrati e agli operatori giudiziari per poter lavorare meglio. Bianconero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. E ora parliamo delle due nuove scosse di terremoto nelle Marche. Secondo i dati diffusi all'Istituto Nazionale di Geofisica, la prima ha avuto una magnitudo di 2.9, la seconda di 3.9, entrambe seguite da repliche. Hanno avuto come epicentro le province di Macerata e Fermo, molta paura tra la popolazione, nessun danno. Enzo Boschi, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, intervistato da Katia Caramelli. La più forte ha avuto magnitudo 4.0 questa mattina. E queste scosse le stiamo osservando già da un po' di tempo, ce ne sono state altre alcuni giorni fa. Quindi stiamo seguendo attentamente l'evoluzione di questa sequenza. E l'epicentro? Vicino ad Ascoli Piceno, però sono scosse abbastanza profonde, sono a una profondità focale dell'ordine dei 20 km, quindi sono scosse modeste e profonde, quindi non dovrebbero aver creato problemi. Questa è una situazione geologica completamente indipendente da altre, in particolare dall'Abruzzo, non c'entra assolutamente niente, cioè non c'è nessun rapporto di causa ed effetto. All'estero adesso, al presidente del Mali dirò che noi ci aspettiamo un sostegno forte. Le parole sono del ministro degli esteri Franco Frattini, che tra qualche ora lascerà la Mauritania alla volta del Mali, dove incontrerà il presidente della Repubblica, appunto, del Mali. Si parla, il tema è quello degli ostaggi detenuti in Mauritania. Dal Mali Frattini vuole una comunicazione di tutte le informazioni utili alla liberazione. Ho avuto assicurazioni molto importanti qui in Mauritania, ha concluso Frattini, e sono certo di averle anche in Mali. Ci spostiamo in Iran adesso, dove questa mattina è stato ucciso con una motobomba un fisico nucleare. Il regime accusa Israele e Stati Uniti. Ci colleghiamo in diretta con Farihan Sabahi. Buongiorno Farihan. Sì, buongiorno Simone. Le autorità iraniane biasimano Israele e Stati Uniti, e con Washington il clima è particolarmente teso in questo momento, ma non possiamo escludere che si sia trattato di un omicidio di Stato per evitare che il fisico nucleare Massoud Mohammadi potesse lasciare l'Iran per gli Stati Uniti, come era già successo a settembre con un paio di suoi colleghi. Quindi la tua ipotesi è che possa esserci dietro lo stesso regime? Beh, quella è un'ipotesi in realtà verosimile, perché Sharam Amin, fisico nucleare coinvolto nell'impianto nucleare vicino a Qom, quello recentemente scoperto, era scomparso in Arabia Saudita durante il pellegrinaggio alla Mecca nel mese di settembre. Le autorità iraniane avevano chiesto aiuto alle autorità saudite, e poi c'era stato un altro iraniano che conosciamo solo per cognome, Ardebidi, che era stato arrestato in Georgia e poi estradato negli Stati Uniti. Per Teheran si tratterebbe semplicemente di un imprenditore, ma secondo altre fonti in realtà sarebbe anche lui coinvolto pesantemente nel programma nucleare iraniano. Quindi insomma ci sono delle altre storie nel passato che dimostrano come personaggi importanti anche della nomenclatura abbiano lasciato l'Iran per gli Stati Uniti. Anche Ali Reza Asghari era stato viceministro alla difesa e poi esponente di rilievo delle guardie rivoluzionarie, anche lui era scappato, era stato rapito, dipende appunto dalle fonti che guardiamo. E grazie a Farihan Sabahi per questi aggiornamenti e per questa lettura di quel che è successo stamattina in Iran. E noi parliamo invece adesso del designer e grafico olandese Bob Norda, morto ieri a Milano all'età di 82 anni, italiano d'adozione, si è spento all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove era stato ricoverato in seguito ad una caduta in casa. Al designer si deve la progettazione di alcuni fra i marchi più noti del nostro tempo. Sentiamone un profilo nel servizio. Bob Norda era per tutti l'architetto dei marchi. La sua matita disegnò alcuni dei più importanti loghi italiani, loghi scolpiti nell'immaginario collettivo come Coop, Enel, Mondadori, Feltrinelli, Touring Club Italiano, Eni e Agip. Nato ad Amsterdam nel 1927, alla fine degli anni 50 Norda decise di trasferirsi a Milano, dove in pieno boom economico costruì la sua fortuna professionale. Iniziò collaborando con Pirelli e con Rinascente, per cui era consulente artistico per l'imballaggio. A lui Milano, così come poi New York e San Paolo, deve la progettazione della segnaletica della metropolitana, disegnata con l'amico Franco Albini, e l'allestimento degli uffici di Palazzo Pirelli, sede della Regione Lombardia, di cui firmò anche il logo. Gli valse uno dei 4 compassi d'oro, il riconoscimento più prestigioso nel campo del design. La sua attività nella progettazione dei marchi lo portò ad essere uno dei primi in Italia a teorizzare l'importanza della costruzione di un'identità aziendale basata sul gruppo, presupposto della cultura del Made in Italy. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ora parliamo di un'altra morte illustre, quella del cineasta Eric Romero. C'era qualcuno che di Romero diceva che era un regista radiofonico, ovviamente disprezzandolo, perché il suo cinema era estremamente parlato. Ma io credo che invece fosse proprio un regista che era capace di far vedere la parola, cioè inserito nell'ambito della Nouvelle Vague, ma assolutamente libero e distaccato, cioè non era ascrivibile a gruppi. E con questa voglia di andare a esplorare dentro i sentimenti in una maniera estremamente, a mio avviso, raffinata. Così Giancarlo Zappoli, critico cinematografico e direttore di MyMovies.it, ricordando il grande autore e cineasta francese Éric Rohmer, morto ieri mattina a 89 anni in un ospedale di Parigi. Rohmer, il cui vero nome era Jean-Marie Maurice Scherrer, lascia molte opere cinematografiche importanti a testimonianza della sua prolifica e lunga carriera, iniziata con Il segno del leone nel 1959. Vous êtes né sous signe du lion? Moi aussi. Ah, c'est merveilleux. C'est le signe le plus noble. Una carriera proseguita con tanti capolavori, dalla Mia notte con Maud del 69 alla Marchesa Fon del 76, che ottenne il premio della giuria a Cannes, sino al più noto Il raggio verde del 1986, grande successo internazionale Leone d'oro a Venezia alla 43esima edizione del Festival del Cinema. Dice Verne che quando una persona vede Il raggio verde, quella persona è capace di leggere nei propri sentimenti e nei sentimenti altrui. Davvero, è bellissimo. È magnifico. E se fosse vero, si potrebbe diventare molto lucidi vedendo Il raggio verde. Dopo il leone alla carriera nel 2001, sempre a Venezia, Rohmer presentò la sua ultima fatica, Gli amori di Astrea e Celadon del 2007. E poiché egli camminava immerso nei suoi pensieri, mai uomo restò più attonito di lui nel vedere d'un tratto la bella Astrea. Che visione fu quella per Celadon. Uomo molto schivo nella vita, ma estremamente poliedrico nel suo lavoro, è stato infatti anche reporter per un quotidiano, professore di letteratura, scrittore, critico sui Cahiers du Cinéma, ma soprattutto è stato un grande regista. Per concludere, era un regista capace di raccontare i sentimenti senza fare sentimentalismo, che non è una cosa poi facilissima. Adriana Fracchia, GR24, Il Sole 24 Ore. Nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato di politica con le parole di Gianfranco Fini, abbiamo parlato del terremoto nelle Marche, tra l'altro è appena uscita la notizia che ci sono state altre due scosse di magnitudo 2.7, siamo andati all'estero per parlare di Iran con l'attentato di questa mattina, adesso ci occupiamo delle vicende di Rosarno. E dunque andiamo in Calabria per appunto le vicende che riguardano Rosarno, dove c'è stata la rivolta degli immigrati l'altro giorno e c'è stato un intervento diplomatico da parte dell'Egitto. No ad una campagna di aggressione e di violenza contro immigrati e minoranze arabe e musulmane in Italia. Dopo l'Osservatore Romano ad intervenire il governo egiziano, che in un comunicato ufficiale chiede all'Italia di prendere le misure necessarie. Se ne tornerà a parlare ufficialmente tra 4 giorni durante l'incontro programmato da tempo tra i ministri degli esteri italiano e del Cairo, che sottolinea nella nota diffusa come anche le organizzazioni internazionali per i diritti umani abbiano registrato negli ultimi tempi una crescita di episodi razzisti nel nostro paese. A Rosarno, intanto, si torna alla normalità e proseguono le demolizioni delle strutture che ospitavano gli extracomunitari trasferiti. Nella notte, l'automobile di un immigrato, un ghanese con regolare permesso di soggiorno, è stata incendiata. Per spegnere le fiamme, l'uomo è stato aiutato da alcuni vicini di casa, cittadini di Rosarno, non immigrati. Annalita D'Ambrosio, GR24, Il Sole 24 Ore. Tutto questo sul fronte immigrazione, ma a Rosarno oggi c'è stata anche un'importante operazione contro l'Ndrangheta. Ci colleghiamo in diretta con Filippo Veltri. Filippo, buongiorno. Buongiorno a voi. Il ritorno alla normalità, come si poteva dire, a Rosarno è coinciso con un'operazione di polizia assai importante, con 17 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal GIP del Tribunale di Reggio su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. È bene precisare subito che non c'è alcun legame fra questa operazione e i disordini e quant'altro è successo a Rosarno negli ultimi giorni. È un'operazione che invece prende di mira la cosca mafiosa dei Bellocco, che è una cosca egemone nel cosiddetto locale di 'Ndrangheta di Rosarno. Sono state arrestate appunto 17 persone, alcune ordinanze sono state notificate in carcere a persone già detenute, fra queste il capocosca dei Bellocco, Carmelo, che è detenuto nella casa circondariale di Nuoro. C'è però tra gli arrestati Antonio Bellocco, che è appunto nipote di Carmelo, coinvolto nei giorni scorsi negli incidenti scoppiati a Rosarno, tra le persone arrestate stamattina. Bellocco era stato fermato venerdì con l'accusa di aver aggredito un immigrato e anche alcuni carabinieri. Nell'operazione di oggi della polizia sono stati anche effettuati sequestri beni, ditte individuali, conti correnti, società, automobili, riconducibili ad esponenti dell'andrina dei Bellocco, che aveva esteso il suo dominio anche in alcune zone dell'Emilia Romagna, in particolare della provincia di Bologna. Filippo, in tutto ciò non si esclude però che in quel che è successo nei giorni scorsi a Rosarno ci sia anche la mano dell''ndrangheta, non si esclude negli ambienti investigativi? Continua a non escludersi, ma continua a non trovare grandi motivazioni di indagine, nel senso che la motivazione vera potrebbe essere quella che si è detta fin dal primo minuto, cioè l'intenzione delle cosche più forti dell''ndrangheta, nel caso di specie Bellocco, appunto Pesce, che qui stiamo parlando di cosche di prima rilevanza dell''ndrangheta, abbiano voluto deviare l'attenzione proprio in quei giorni in cui tanto si discuteva dell'attentato dinamitardo alla Procura Generale di Reggio Calabria. Non va dimenticato che la rivolta è scoppiata nello stesso pomeriggio in cui a Reggio Calabria sono arrivati i ministri Maroni e Alfano, che dovevano decidere alcune misure a favore delle forze di polizia e dei magistrati di Reggio. In più, ovviamente, il peso dell''ndrangheta su Rosarno, come dire, nelle cose, nel senso che Bellocco e i Pesce sono dappertutto a Rosarno, in questo senso si può parlare di un governo delle cosche mafiose. Sulle questioni dell'agricoltura, anche dalla raccolta degli agrumi, è un discorso molto particolare, che andrebbe affrontato a sé, in quanto negli ultimi tempi è cambiato molto il panorama, cioè le cosche si sono appropriate di terreni prima di proprietà di vecchi proprietari agricoli e li stanno gestendo in verità non li stanno gestendo affatto. Grazie dunque a Filippo Veltri per questi aggiornamenti e per queste spiegazioni. Noi restiamo in tema e da Rosarno ci spostiamo a Castel Volturno. Molti immigrati che hanno lasciato la Calabria tornano nel luogo dove nel settembre del 2008 i killer della Camorra fecero, lo ricorderete, una strage di africani e dove si scatenò la protesta degli stranieri esasperati. Paolo Piacenza ha intervistato Antonio Casale, direttore del centro di accoglienza Caritas Fernandez, proprio di Castel Volturno. Sentiamo. Abbiamo avuto una serie di richieste di persone che vengono da Rosarno, insomma una 20-30 persone si sono presentate in questi giorni. Qual è la situazione in generale a Castel Volturno? Qual è l'impatto che può avere questo ritorno? Oggi si parla di una ventina di persone, potrebbero essere molti di più. Sì, ma dunque qualcuno di questi, ripeto, si rivolge a noi come centro di accoglienza, qualche altro ritornerà sul territorio dai suoi amici, perché come lei sa a Castel Volturno ci sono migliaia di africani che già vivono sul territorio. In generale l'impatto che questo può avere su Castel Volturno, ma Castel Volturno è già meta di africani che vengono in genere dai campi di Crotone, di Bari, non so, è quotidiano, è normale questo. Cioè, voglio dire, per Castel Volturno non è un fenomeno nuovo legato all'episodio Rosarno. Quindi voglio dire, l'episodio Rosarno non fa altro che aggiungersi a una situazione di normale emergenza. Ecco, c'è il rischio che Castel Volturno diventi la nuova Rosarno? No, questo è un rischio che non c'è, perché Castel Volturno ha un'altra problematica, forse più grave di quella di Rosarno, nel senso che Castel Volturno è già da tanti anni un luogo problematico per la presenza di molti immigrati sul territorio in condizioni spesso di degrado. La differenza con Rosarno è che lì erano concentrati tutti in un posto, a Castel Volturno invece sono distribuiti su tutto il territorio. E su tutto il litorale Domizio? Su tutto il litorale Domizio, dove più, dove meno, affittano case, subaffittano, qui ce ne sono 10, là ce ne sono 20, là ce ne sono 30, ed è una situazione questa che dura da oltre 20 anni. E ora parliamo di Fiat. In mattinata sulle vicende di Termini Imerese è tornato ad intervenire l'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchione, chiedendo ai sindacati senso della realtà. Dura la reazione dal territorio, ci colleghiamo in diretta con Palermo, con Nino Amadore. Nino, buongiorno, che cosa sta succedendo? Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, come dicevi stamattina già su sono scoppiati, come dire, i primi scioperi spontanei dello stabilimento di Termini Imerese. Come dice Roberto Mastro Simone, che poi è il delegato FIOM, leader storico degli operai termitani del polo Fiat, la tensione sale sempre di più. Domani, come ricorderete, è previsto uno sciopero di 8 ore, una manifestazione con diciamo un corteo che poi terminerà di fronte al Palazzo del Parlamento siciliano. Insomma, in questa situazione la tensione è sempre molto alta e quindi bisogna sempre stare con gli occhi aperti, anche se insomma gli operai di Termini Imerese hanno sempre dimostrato molta civiltà nelle loro manifestazioni. Però ricorderete che qualche anno fa hanno bloccato l'autostrada, insomma ci sono state delle reazioni molto molto forti. Altre reazioni vengono dalla politica. Oggi parla un deputato del PD che è di Termini Imerese, Beppe Lumia, e sostanzialmente accusa la Fiat di non dire tutta la verità. Dice non è possibile ritirarsi da questo territorio, che è un territorio strategico, un territorio anche strategico rispetto al Mediterraneo e all'area di libero scambio. Bene. Questa è la situazione del territorio, poi ci sono le reazioni nazionali e la UIRM che propone uno sciopero di 2 ore in tutto il gruppo nei prossimi giorni, proprio per tutelare e difendere Termini Imerese. Vedremo che cosa succederà, intanto appunto per domani è atteso lo sciopero. Grazie nel frattempo a Nino Amadore del Sole 24 Ore da Palermo, e parliamo di un'altra protesta, perché a poco più di 4 anni dagli scontri di Venaus contro la TAV Torino-Lione, dall'alba di questa mattina sono cominciati i sondaggi per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità. 3 trivelle operano lo scalo merci di Orbassano, alla stazione ferroviaria di Collegno e a Torino. Nel sito Amiat di Basse Listura l'avvio dei sondaggi è stato invece impedito da Inottava all'autoporto di Susa. I sondaggi previsti sono in tutto 91, di cui 12 entro la fine del mese di gennaio, quando scadrà il termine per la consegna dell'ipotesi di tracciato all'Unione Europea. Oggi di TAV si è parlato a 9 in punto, la versione di Oscar. Sentiamo cosa ha detto il ministro Matteoli al microfono di Oscar Giannino. Stamattina sono iniziati i sondaggi, sono iniziati a Collegno, a Grugliasco, era nel programma e lo abbiamo mantenuto. Durante tutte le volte che io sono andato all'osservatorio e soprattutto quando ho incontrato tutti i sindaci della zona, io ho sempre detto che non era in discussione l'opera. L'opera si sarebbe realizzata, la volontà del governo era quella di farlo. Gli accordi presi e gli incontri che ho avuto tante volte con il collega francese, gli impegni presi dal governo più in generale, sono tutti tesi a realizzare l'opera. Ho detto tutte le volte che ho incontrato i sindaci della zona che l'osservatorio serviva per cercare di trovare un progetto il più possibile condiviso dai sindaci o comunque dalle comunità. Questo è il punto fermo che il governo ha sempre tenuto e che intende tenere e portare avanti. Siamo in chiusura, parliamo di sport. Il calcio stasera torna alla Coppa Italia con l'ottavo di finale tra Roma e Triestina, ma i riflettori sono puntati su Torino, dove sono ore decisive per il tecnico della Juventus, Ciro Ferrara. Un pallido sole, temperatura di circa 3 gradi e 3 uomini in visita questa mattina al centro sportivo di Vinovo, dove si allena la Juventus. Il presidente Jean-Claude Blanc, il vice DG Roberto Bettega ed il direttore sportivo Alessio Secco. Sono arrivati uno dopo l'altro a bordo delle vetture del gruppo, con i vetri scuri come i loro volti. Si sono infilati nello spogliatoio e sono rimasti a colloquio con Ferrara e la squadra prima che scendesse in campo per l'allenamento mattutino. Una presenza in forza della nuova triade bianconera al fianco di giocatori e tecnico, e che dà l'idea di una assunzione di responsabilità collettiva della dirigenza per gli scarsi risultati ottenuti finora. Il destino di Ferrara è in ogni caso appeso ad un filo: o vincerà domani, per ironia della sorte contro il suo Napoli in Coppa Italia, o verrà esonerato. Le soluzioni a disposizione della società restano due: la scelta di un traghettatore che conosce l'ambiente e sia apprezzato dalla tifoseria e che possa concludere la stagione, uno alla Dino Zoff, oppure la svolta Guus Hiddink, esperto tecnico olandese che assumerebbe un incarico a mezzo servizio visto che è già CT della nazionale russa. Domani sera, per di più contro un Napoli che non perde da 100 giorni dall'avvio dell'era Mazzarri, un nuovo capitolo di questo psicodramma a tinte bianche e nere. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura la Formula 1, mattinata di lavoro per Michael Schumacher, sceso in pista a Jerez in Spagna per una speciale sessione di test. Il pilota tedesco della Mercedes sta provando dalle 9 circa una monoposto GP2 del team Supernova. Schumacher ha completato 5 giri prima di tornare ai box. Dal 1 febbraio l'ex pilota Ferrari potrà effettuare i test ordinari sulla sua nuova monoposto, con la quale esordirà in Bahrain il 14 di marzo. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Roberto Scaltritti. Il prossimo giornale radio è alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.